2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Questa è la nostra prima puntata della nuova stagione del nostro programma. Inizia anche per il fine settimana di Radio 24 la nuova stagione con alcune novità che vi invito ad ascoltare, quindi rimanete incollati alla radio, comunque scegliete i programmi che preferite sul nostro palinsesto, andate sul nostro sito internet. Per comunicare con noi potete utilizzare la posta elettronica 2024, quindi la nostra email 2024@radio24.it, oppure potete scegliere anche Facebook o Twitter. La prossima settimana, il 12 settembre, alle ore 19 italiane, ore 10 ora californiana, Apple presenterà il nuovo iPhone. Non sappiamo ancora se sarà l'iPhone 8, come alcuni dicono, oppure l'iPhone X, iPhone X, per i 10 anni dal primo iPhone nel 2007. La presentazione avverrà nel nuovo Steve Jobs Theater, che è il nuovo teatro all'interno della nuova e fantascientifica sede della Apple. Alcuni la chiamano l'astronave, vista la forma circolare. C'è sempre molto interesse per gli eventi di Apple perché ovviamente si capiscono questi eventi danno alcune indicazioni sul futuro di questa azienda, che è l'azienda con maggiore capitalizzazione di borsa al mondo, e quindi anche solamente dal punto di vista finanziario, se non per poi parlare di quello industriale, di quello relativo alla consumer electronics, del mondo della tecnologia in generale, beh, insomma, da questi eventi si possono comprendere alcune delle tendenze tecnologiche. La prossima settimana quindi commenteremo. Devo anche dire che tutte le anteprime che vedete in questi giorni, con molti punti interrogativi, non si sa quasi mai nulla, o comunque ci sono a volte alcune indiscrezioni, beh, dovete sapere che tutte le persone che lavorano a siti internet di vario genere, sia generalisti ma anche di tecnologia, mi dicono e mi continuano a dire che gli articoli in cui si parla di Apple fanno record su record di accessi, quindi c'è molto interesse attorno ad Apple. Allora, riprendiamo la stagione con, ai noi, una notizia di un nuovo mega cyber attacco. Una delle più grandi aziende americane di valutazione del merito di credito, cioè quelle aziende che dicono se una persona è un buon o un cattivo pagatore, sostanzialmente, si chiama Equifax, ha annunciato che tra metà maggio e luglio alcuni hacker avrebbero rubato dati personali di, pensate un po', 143 milioni di persone. Tra questi ci sono, oltre ovviamente a cittadini americani, anche canadesi e britannici. La cosa che forse è più preoccupante è che Equifax si occupa anche di prevenzione delle violazioni dei dati personali. Quindi un'azienda che si occupa di questo e che viene hackerata non è che sia proprio un bellissimo biglietto da visita. Devo anche dire che tutta la vicenda e soprattutto la gestione di questa vicenda, uno potrebbe farsi la lista di quello che non va fatto quando si viene hackerati. Tra l'altro, visto che ci sarà dal prossimo anno l'obbligo di comunicazione all'interno dell'Unione Europea, scatterà questo obbligo. Dovremmo abituarci a notizie di questo genere, perché gli attacchi e gli incidenti informatici sono inevitabili. Certo, è necessario investire per ridurre il rischio e noi ovviamente per primi speriamo che siano sempre meno, o questo tipo di attacchi siano sempre meno grandi, meno impattanti, però dovremmo abituarci, visto che ci sarà questo obbligo, con tra l'altro multe per le aziende che non comunicano tempestivamente questi attacchi molto molto importanti. A tal proposito, a proposito di security, di sicurezza, sto raccogliendo molti pareri preoccupati da parte di molti esperti di sicurezza su direi che le due cose sono collegate: industria 4.0 e Internet of Things, la Internet degli oggetti. Diciamo che la Internet degli oggetti è una parte di industria 4.0, le due cose ovviamente sono fortemente collegate. Beh, attenzione, perché gli investimenti che già sono in atto, ma quelli che verranno fatti nei prossimi anni, devono comprendere un elemento di security, di sicurezza. Questi sistemi non possono nascere senza un'attenzione forte, molto forte, alla sicurezza. Purtroppo soprattutto per quanto riguarda internet degli oggetti, già da tempo commentiamo degli attacchi fatti attraverso oggetti connessi alla rete che non sono adeguatamente protetti. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo dalla TV. Da questa settimana c'è un nuovo canale gratuito sul digitale terrestre, al numero 55 è stato acceso Cine Sony, un canale dedicato al cinema che attinge al vasto catalogo di Sony Pictures. Canale però bocciato dal punto di vista tecnologico perché non è, pensate, in HD. Nel 2017 siamo ancora costretti a commentare notizie di nuovi canali televisivi non in alta definizione sul digitale terrestre. Una notizia che riguarda il mondo dei pagamenti: Satispay, che è uno dei sistemi di pagamento via smartphone più interessanti al momento, ha chiuso il terzo aumento di capitale raccogliendo 18,3 milioni di euro, portando la raccolta complessiva a 26,8 milioni, è un record per una startup italiana, quindi degno di notizia. A proposito di startup e finanziamenti, che è uno dei problemi per la crescita delle startup e quindi dei talenti e delle tecnologie italiane, segnalo che il 17 e 18 ottobre ci sarà a Milano un evento che si chiama Scale It, ne avevamo parlato 2024, ma la notizia è che adesso sono state selezionate 15 startup, 12 sono italiane, le altre sono straniere, presenteranno i propri piani di crescita con l'obiettivo di aggiudicarsi finanziamenti da un minimo di 3 fino a un massimo di 30 milioni di euro. Come abbiamo detto altre volte, i denari ci sono in giro per il mondo alla ricerca di tecnologia e di talenti, e anche l'Italia dimostra, visto che sono state selezionate queste start-up, di avere talenti e tecnologie che possono essere messe di fronte agli investitori internazionali. Una notizia che riguarda il mondo degli aerei, ma aerei particolari, non conosciuti oggi, aerei completamente elettrici, come quello che sta sperimentando e sviluppando una startup tedesca che si chiama Lilium Aviation, che ha raccolto fondi per 90 milioni di dollari, portando a 100 il totale dei milioni raccolti. Tra i finanziamenti ci sono alcuni fondi internazionali, tra cui anche la cinese Tencent, per la quale alcuni milioni sono briciole. Comunque questo aeroplano è molto interessante, la Lilium ha progettato e ha già fatto volare un modello a due posti, si tratta di un mini jet elettrico a decollo e atterraggio verticale. L'intenzione è quella di offrire un sistema di trasporto che possa raggiungere i centri delle città, proprio grazie a questo sistema che permette, con una serie di piccoli ventilatori, chiamiamoli così per semplicità, non sono delle turbine elettriche posizionate lungo le ali. Questo piccolo aeroplano ha un progetto molto ambizioso, cioè quello di portare il trasporto in volo all'interno delle città. 300 km di autonomia, 300 km all'ora la velocità. Lilium ha in progetto anche un aereo un po' più grande che porterà 5 persone. Tra poco parleremo di biciclette. Ci sono delle evoluzioni molto interessanti dal punto di vista tecnologico sul mondo delle biciclette. Adesso invece parliamo di auto. La prima notizia riguarda Jaguar Land Rover, che ricordiamo è controllata oggi dall'indiana Tata. Ha annunciato che a partire dal 2020 produrrà solo auto elettriche o ibride. Un annuncio simile era stato fatto qualche mese fa da Volvo, in questo caso un'azienda controllata da una società cinese. Devo dire che gli asiatici, per quanto riguarda la propulsione elettrica, sono in prima fila. E anche altre case automobilistiche stanno accelerando su questo tipo di propulsione. BMW, ad esempio, recentemente ha annunciato che entro il 2025 arriveranno in catalogo 13 auto ibride e 12 elettriche. A proposito di case automobilistiche che puntano molto sull'elettrico, Nissan ha presentato questa settimana la nuova Leaf, in arrivo in Giappone dal 2 ottobre e in Italia dal prossimo anno, già da gennaio-febbraio. Una delle novità riguarda l'autonomia, che è una delle caratteristiche che oggi vengono guardate con più attenzione e interesse su un'auto elettrica. Autonomia dichiarata di 400 km, che poi all'atto pratico sono circa 300, poco più di 300. Poi dipende sempre come si guida, perché se uno fa una velocità costante l'autonomia aumenta, come del resto hanno dimostrato i soci del club italiano delle Tesla, che hanno realizzato il record assoluto di durata delle batterie della Tesla. Hanno fatto, mi sembra, qua un migliaio di chilometri, andando sempre 40 all'ora, con velocità controllata. Insomma, era un esperimento ovviamente, però questo dimostra che se uno mantiene una velocità stabile, allunga la durata delle batterie. Ovviamente la Leaf, come molte altre auto del genere, è un'auto connessa che ha un sistema di guida assistita con 1000 soluzioni di protezione per la guida, e una novità molto interessante che si chiama e-pedal. Abbiamo visto qualcosa di simile su altre automobili, ma in questo caso stiamo parlando della prima auto completamente elettrica che ha una soluzione di questo tipo, e potrebbe darci un accenno di come saranno i pedali, finché ci sono, perché poi quando ci sarà la guida completamente autonoma scompariranno sia il volante che i pedali. Comunque ci potrebbe dare un'idea di quella che sarà la guida nei prossimi anni sulle macchine della prossima generazione. Paolo Matteucci è il direttore dei veicoli elettrici di Nissan Italia e ci ha spiegato come funziona e che cos'è questo e-pedal. Ma guardi, è una tecnologia che naturalmente è legata al motore elettrico, perché il motore elettrico ha un grande vantaggio rispetto a un motore termico, che può lavorare sia per dare energia che per produrre energia elettrica. Quindi il grande vantaggio del motore elettrico è che, lavorando al contrario, è in grado di utilizzare l'energia cinetica, l'energia del movimento in fase di frenata, per produrre energia e quindi per andare a mettere nuovamente corrente all'interno della batteria. Naturalmente nel momento in cui si fa questa azione, quindi si produce energia elettrica con il movimento, il motore genera un freno, e quindi più è forte questo freno e più si può utilizzare per frenare la vettura. Quindi il funzionamento è semplicemente che nel momento della frenata il motore funziona all'inverso. Certo, e con un unico pedale si frena addirittura, anche se esiste ancora il freno d'emergenza, quindi volendo uno sposta il piede e schiaccia il freno, ma in condizioni normali di guida uno potrebbe far tutto con un unico pedale. Sì, ecco, la tecnologia che abbiamo sviluppato è che si può guidare tutto quanto con un unico pedale. Dai primi studi che abbiamo fatto su questa nuova vettura abbiamo visto che nel 90% dei casi il cliente non usa più il pedale del freno, perché comunque la decelerazione che possiamo avere con questo sistema arriva fino a 0,2 g, quindi 0,2 volte la forza gravitazionale, che nel 90% dei casi della guida che abbiamo tutti quanti i giorni è più che sufficiente per fermare la vettura. Quindi le prime analisi che abbiamo è che nel 90% dei casi non viene più utilizzato il pedale del freno. Naturalmente quando viene utilizzato questo tipo di frenata, quindi quando si rilascia il pedale in maniera più decisa e quindi la vettura arriva proprio a frenare, si accendono anche i segnali dello stop posteriori, proprio perché diventa una vera e propria frenata. Certo, così come ci si deve abituare quando uno guida un'automobile con il cambio automatico, visto che in Italia siamo abituati al cambio manuale, immagino che anche in questo caso bisogna abituarsi, perché forse subito un pilota messo su un'auto con questo sistema rimane un po' spiazzato. Ma guardi, gli studi che abbiamo fatto, anche i test che abbiamo fatto, è un tipo di guida molto naturale. Mi dà un enorme vantaggio nella guida in discesa, cioè se noi pensiamo che quando ci troviamo in discesa, soprattutto un pilota principiante ha questa sensazione della macchina che scivola e quindi poi è costretto a scalare le marce per tenere il motore alto di giri e per non farsi scivolare la vettura, con l'e-pedal questo è molto più facile, perché di fatto è come se guidassimo una vettura sempre in pianura, perché questo processo avviene naturalmente semplicemente rilasciando l'acceleratore, quel mezzo centimetro in più che serve per generare quel poco più di freno. E l'altro grande vantaggio è che la vettura, quando è completamente ferma, aziona anche il freno idraulico, quindi la vettura rimane ferma, e questo semplifica molto tutte quante le operazioni di guida, da diventare molto intuitive e molto naturale. Ora parliamo di biciclette, biciclette connesse. Nel mondo della bicicletta ci sono alcuni trend tecnologici, ne abbiamo parlato a 2024, andate nel nostro archivio su www.radio24.it, scrivendo bicicletta o biciclette, beh, potete ascoltare alcune puntate in cui abbiamo parlato di alcune tecnologie. Ovviamente la propulsione elettrica è una delle tecnologie, forse la principale, che sta arrivando prepotentemente anche nel mondo della bicicletta. L'altra è la connettività. E a proposito di connettività, adesso vi raccontiamo quello che ha realizzato una startup italiana di Torino, si chiama Sherlock, dove all'interno del nome Sherlock, che potrebbe far ricordare Sherlock Holmes oppure altri Sherlock, c'è anche la parola lock, che ci fa ricordare il lucchetto, perché Sherlock ha realizzato un antifurto. E ora ne parliamo con uno dei fondatori, Pierluigi Freni. Benvenuto a 2024. Grazie, ciao. Il vostro prodotto si chiama come l'azienda Sherlock, è un piccolo modulo che si connette alla rete, che ha un GPS, che trasforma la bicicletta in un oggetto connesso, quindi anche la bicicletta fa parte della Internet of Things. Raccontaci meglio di che cosa si tratta. Allora, Sherlock è un dispositivo GPS che può essere installato all'interno della bici, viene utilizzato, come dicevi tu, come antifurto, e praticamente una volta attivato tramite app dal ciclista, segnala direttamente sullo smartphone se la bici viene mossa senza autorizzazione, e da quel momento inizia il tracciamento GPS, quindi io ciclista posso vedere le posizioni della mia bici direttamente sul mio telefono. Ci sono tanti oggetti che sono connessi alla rete, che hanno il GPS, che quindi possono geolocalizzare un oggetto. In questo caso stiamo parlando della bicicletta. Nel vostro caso qual è la particolarità? Beh, il punto di forza, diciamo, che è il fatto che una volta installato il dispositivo risulta completamente invisibile dall'esterno e quindi sostanzialmente non è rintracciabile dal ladro. Sì, quindi non è una cosa posticcia che il ladro vede e può togliere. No, una volta installato si integra perfettamente all'interno della bici e quindi non altera l'estetica della bici, che per molti è importante, ma soprattutto non è visibile dall'esterno. Sì, è un piccolo cilindro che va inserito tipicamente nel manubrio. Esatto, sì. Quanto costa questo strumento? E poi raccontaci qualcosa in più delle caratteristiche. Ha un ricevitore GPS, ha un modulo che si connette alla rete di telefonia, quindi poi di fatto alla rete internet, questi sono i due strumenti, ha poi una batteria, insomma raccontaci qualche cosa in più. Allora, il dispositivo è disponibile adesso sul nostro sito, lo vendiamo a 149 euro con 2 anni di connettività inclusa. Infatti il dispositivo, per funzionare, si sfrutta i satelliti per la geolocalizzazione, ma anche un modulo dati, quindi si collega alla rete internet per inviare le notifiche in caso di furto e le posizioni, anche se sei lontano dalla tua bici. Quindi dentro c'è una SIM che però è integrata e noi offriamo la connettività, quindi tu utente non devi preoccuparti di piani dati, SIM, eccetera, eccetera. E col nostro dispositivo hai copertura internet in tutta Europa e Nord America, quindi anche se viaggi con la bici o ti sposti non c'è nessun problema. E i primi 2 anni sono inclusi, quindi puoi iniziare a usarlo tranquillamente. Ok, che cosa c'è dentro in termini di sensori, di apparati di connettività? Allora, dentro abbiamo il GPS naturalmente e il modulo dati per la connessione a internet. Inoltre c'è un accelerometro che serve per appunto percepire lo spostamento, il movimento non autorizzato della bici. Quindi in sostanza è un piccolo cellulare in miniatura da mettere dentro la tua bici, che funziona un po' tipo trova il mio iPhone alla fine. Certo. Quindi il principio è quello. Oh, ovviamente la bicicletta continua ad essere un oggetto desiderato dai ladri, quindi va protetta, cioè il lucchetto va ancora utilizzato. Assolutamente sì, il nostro sistema non si sostituisce a un lucchetto, ma è in aggiunta, visto che comunque i tempi per aprire un lucchetto variano dai pochi secondi fino ai 60-90 secondi a seconda di quanto uno ha speso per il lucchetto, comunque non è ancora un sistema, il lucchetto, in grado di impedire il furto. Noi cerchiamo di aiutare il ciclista poi a ritrovare la bici una volta che il furto è, ahimè, avvenuto. Sì. Senti, parliamo della batteria, che è un tema importante in generale quando parliamo di oggetti connessi a partire dal nostro smartphone. Nel vostro caso come si ricarica, quanto dura la batteria, perché è importante, perché se io non ritrovo velocemente la bicicletta e la batteria si scarica, poi non è più geolocalizzata la bicicletta. Assolutamente. Allora, la batteria in standby dura 2 settimane. Quando è tempo di ricaricarla ricevo una notifica sul telefono, quindi mi avvisa il dispositivo che ha bisogno di essere ricaricato, e poi invece in fase di tracciamento dipende un po' dalla frequenza con cui vengono inviate le posizioni, ed è una scelta dell'utente, varia da 2 minuti a 3 ore, e a seconda appunto del rate di aggiornamento si va dalle 10 ore di autonomia in tracciamento continuo fino ai 2 giorni, quindi dipende dalla zona in cui uno si trova, se ha possibilità eventualmente di muoversi rapidamente, quindi lasciamo all'utente la libertà di scegliere come intervenire. Quindi nella migliore delle ipotesi una ha un paio di giorni per ritrovare la bicicletta. Esatto. È vero che comunque per l'oggetto bici in caso di furto bisogna intervenire tempestivamente prima che venga trasportata fuori dai confini nazionali o fatta a pezzi e venduta a singoli pezzi, quindi è importante muoversi rapidamente. Sì. Senti, ti faccio alcune domande di scenario. Tu sei stato anche recentemente ad un'importante fiera dedicata al mondo della bicicletta. Partendo dal vostro mondo, quindi connettività, bicicletta connessa, che è una parte della internet degli oggetti di fatto, cosa sta succedendo, quali sono gli scenari, e pensando appunto al vostro sistema, è pensabile che nel giro di qualche anno la gran parte delle biciclette, almeno quelle che costano qualche centinaio di euro, oltre magari anche 1000 euro, sia connessa nativamente, cioè fra qualche anno sia una cosa normale? Guarda, appunto siamo stati la settimana scorsa a Eurobike in Germania, che è una delle principali fiere del settore, e abbiamo visto un sacco di bici elettriche e qualcuna che ha già qualche sistema di tracciamento integrato, quindi è una cosa che sta prendendo piede, è ancora all'inizio, si parla di bici di prezzi molto elevati, quindi diverse migliaia di euro, però sicuramente come ogni nuova tecnologia poi, quando si diffonde, si riesce anche a ridurre di costo. Certo, nel momento proponiamo un dispositivo che puoi installare sulla tua bici o dopo aver comprato una bici normale, quindi al momento è così e serve per come dire, proteggere magari la bici che hai già. Sì, sì, certo, però è chiaro che se questi prodotti vengono integrati nativamente da una fabbrica nella bicicletta costeranno meno. Se pensiamo che oggi, esatto, ci sono degli smartphone che costano meno di 100 euro e hanno connettività e GPS, possiamo immaginare che uno strumento del genere possa arrivare. Voi siete ovviamente una startup e quindi iniziate non con prezzi di poche decine di euro, ovviamente. Esatto. Questa comunque è una tendenza che state vedendo sul mercato. Sì, sì, sì, assolutamente. Alla fine l'elettrico e il connesso sono due caratteristiche che stanno prendendo piede anche nel mondo bici. Senti, un'ultima domanda riguarda il rapporto con le forze dell'ordine, perché quando io sullo smartphone vedo la mia bicicletta su una mappa e quindi dico la mia bicicletta è stata rubata e si trova in quel quartiere lì, sperando che non sia già andata in un'altra città o addirittura in un altro stato, è consigliabile avvisare le forze dell'ordine o ci sono addirittura degli automatismi che avvisano le forze dell'ordine? Allora, noi sconsigliamo vivamente di agire da soli perché può essere pericoloso. Diciamo che buona parte del servizio che offriamo l'abbiamo sviluppato con il supporto della Polizia Municipale di Torino, che si occupa anche di furti di bici, e quindi abbiamo strutturato proprio il processo in modo che sia utile anche per loro. Quindi nel momento in cui avviene un furto, ricevi un codice. Andando dalla polizia con questo codice, loro possono accedere a una pagina web in cui vedono la posizione della tua bici e quindi possono andarla a recuperare. Assieme a questo codice di tracciamento hai anche a disposizione un passaporto della bici che contiene tutte le tue informazioni, le informazioni della bici e le foto da allegare alla denuncia ed è un elemento fondamentale in fase di ricerca della bici. Noi abbiamo fatto qui su Torino degli esperimenti con la polizia, abbiamo giocato a guardie e ladri e loro sono riusciti a beccare il nostro ladro avendo solo la posizione e la foto della bici. Molto bene, per Luigi, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro e in bocca al lupo. Crepi il lupo, ciao. Tra poco sarà con noi Gianfranco Giardina che torna nella edizione 2017-2018 di 2024. Ovviamente si avvicina il 2024, questo potrebbe essere un problema per il titolo della nostra trasmissione, poi ne parleremo nei prossimi mesi o nei prossimi anni. Dunque, a proposito di connettività, a proposito di prodotti di Sherlock, allora, intanto una cosa che vorrei aggiungere, che è una buona notizia, è che questi prodotti sono realizzati in Italia, sono assemblati in Italia con componenti ovviamente che arrivano da altri paesi, ma a Venaria, vicino a Torino, dove c'è uno stabilimento di produzione di Viasat che ha comprato il 24% di Sherlock. E questo è una buona cosa quando un'azienda italiana acquista una startup italiana che è coerente col proprio business. E a proposito di Internet of Things e, se vogliamo, anche di Industria 4.0, perché a volte uno dice, ma che cos'è questa benedetta Industria 4.0? Allora, questa settimana Luca Orlando, che scrive sul Sole 24 Ore, ci ha raccontato quello che ha realizzato la Carpigiani, azienda di Bologna, che è leader, tra i leader del mondo, una delle aziende più importanti nella produzione di macchine per produrre gelato. In moltissime gelaterie del mondo ci sono le macchine della Carpigiani. Allora, Carpigiani ha realizzato un sistema per, grazie al quale ci sono dei sensori messi dentro queste macchine si connettono alla rete internet e ogni tanto mandano dati e questo sistema permette di raccogliere in tempo reale dalle macchine i dati di funzionamento come ad esempio la temperatura, lo stato del compressore, la pressione dell'impianto refrigerante, la consistenza del gelato, che è un elemento fondamentale per la produzione del gelato. Tutti questi dati vengono raccolti per varie ragioni. Poi c'era anche chi diceva, tu intanto raccogli i dati, dopodiché vediamo che cosa farci con questi dati. L'analisi dei dati è un problema che arriva dopo. Un nostro ascoltatore mi ha scritto dicendo, ma questo 2017 non doveva essere l'anno della Luna? Però non stiamo sentendo parlare di Luna. Però che cosa è successo? Perché quest'anno doveva essere l'anno della Luna e forse non sarà l'anno della Luna? Ci siamo fatti raccontare tutto da uno dei massimi esperti di spazio in Italia, un collega, un giornalista, Luigi Bignami. Nessuno dei progetti di cui avevamo parlato e che sono in atto sono stati cancellati, questa è la buona notizia. Tutti quanti però sono stati spostati, partendo dai cinesi. I cinesi hanno in ballo questa missione importantissima, quella di riportare 2 chili di suolo lunare e doveva partire la missione, si chiama Chang'e 5, doveva partire alla fine del 2017, invece è stata spostata verso febbraio-marzo, ma non è stata ancora definita una data precisa. È stato detto che sarebbe comunque stata lanciata prima dell'inizio della primavera. L'altro grande ritardo è dovuto allo spostamento in là del noto premio di Google, che darà a chi per primo arriverà sulla Luna 20 milioni di dollari più tutta un'altra serie di benefit che riguardano il modo con il quale invieranno a terra le immagini e poi se ci saranno spostamenti di rover sulla superficie lunare, eccetera. Ebbene, anche queste missioni dovevano partire a fine 2017, ma le cinque società che avevano in progetto appunto il lancio di sonde hanno chiesto a Google se potevano spostare in là la data proprio dell'atterraggio finale, anche perché alcune sonde impiegheranno diversi giorni per il tipo di orbita ad arrivare alla Luna. Google ha accettato come ultimo, proprio ultima data definitiva, ha messo il 31 di marzo. Sembra proprio che si dovrà rispettare al 100% questo appuntamento, altrimenti si verrà squalificati. Quindi cinque missioni che erano in programma per partire per la fine del 2017 partiranno invece agli inizi del 2018. Quindi dobbiamo aspettarci che tra gennaio e marzo, se non ci saranno altri ritardi, vedremo almeno sei sonde sulla superficie lunare. Quindi potremmo dire che a questo punto l'anno della Luna sarà il 2018, non il 2017. Certamente, proprio così, anche perché poi ci saranno nel 2018 delle definizioni su quelli che saranno i progetti della NASA nei confronti della Luna, cioè se costruire e come costruire una stazione spaziale attorno alla Luna per poi sperimentare tutto quello che serve per portare più in là l'uomo su Marte, e ci sarà anche una società del privata tedesca che tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 lancerà, indipendentemente dal concorso di Google, non c'entra niente, ma lancerà una sonda sulla Luna che vuole essere l'inizio di una nuova piattaforma che poi darà modo a chiunque di poter lanciare dei carichi sulla superficie del nostro satellite. Già sono stati stabiliti i prezzi, per cui se uno vuole lanciare un chilo dovrà far fronte a circa 800.000 dollari, eccetera, eccetera. Ci sono poi sconti a seconda della quantità di materiale che si vuole lanciare, ma questa sonda dovrebbe proprio dare il via, la possibilità a chiunque, a ricercatori, a società private, eccetera, di poter lanciare del materiale sulla Luna. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, ci fermiamo per una breve pausa, riprendiamo tra poco. Riprendiamo questa puntata di 2024, vi ricordo che il nostro programma va in onda il venerdì tra le 22 e le 23 e da questa stagione la domenica invece che dalle 13.30 alle 14 per tutta l'ora tra le 13, cioè dopo GR24, fino alle 14. Trovate ovviamente tutte le nostre interviste in versione integrale nell'edizione podcast che abbiamo ribattezzato Super Podcast, proprio perché è più lunga della nostra trasmissione, sul nostro sito internet www.radio24.it oppure attraverso le più popolari piattaforme per la gestione del podcast. Adesso è con noi Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale D-Day.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Parliamo di audio questa settimana, partendo da un'esperienza che io, te, il nostro ospite che incontreremo e che vi presenteremo tra poco abbiamo sicuramente fatto, ma direi quasi tutti gli ascoltatori. Tutti. Un ambiente pieno di persone, che inevitabilmente quindi è rumoroso perché le persone parlano tra di loro, tipicamente magari un ristorante durante una festa di matrimonio, un per altro esempio tipo di festa, e ad un certo punto uno dice: usciamo per prendere una boccata d'aria. È una boccata d'aria, sì, in realtà non si va a prendere una boccata d'aria, sì, ma anche magari, ma si va soprattutto a prendere una boccata di riposo per le orecchie, di silenzio, o comunque di ambiente acusticamente confortevole, perché ahimè tutti abbiamo sperimentato, ma forse lo sperimentiamo anche in tutte le pause pranzo d'ufficio e in tutti i momenti in cui mangiamo fuori casa, per esempio, la cura acustica, l'attenzione messa nella progettazione acustica degli ambienti comunitari, ma anche delle abitazioni, voglio dire, è praticamente inesistente. Quindi non c'è nessuna, o ce n'è molto poca, attenzione a questi aspetti, mentre per esempio su altri aspetti, per esempio l'aspetto illuminotecnico, gli aspetti legati all'arredamento, ecco, sono molto più curati e nessuno si cura delle nostre orecchie, che sono un organo debole rispetto poco difendibile. Eh sì, indifeso, perché non ha come gli occhi le palpebre che possono chiudersi, quindi le nostre orecchie sono sempre in ascolto. Un po' come il naso, diciamo, che un po' come da il naso, solo se non ce lo tappiamo. Soprattutto sono poco considerate, perché la vista è considerata un senso più importante, sicuramente domina rispetto all'udito. Dobbiamo abituarci a trattare gli ambienti perché siano confortevoli. A noi piace stare su un divano comodo, benissimo, ci piace mangiare bene, ottimo, ci piace avere una luce che non dia fastidio. Ecco, in pochi pensano che dovremmo avere anche un ambiente che accarezza le nostre orecchie invece di offenderle. Sì, siamo di fatto, anche se spesso appunto non ce ne accorgiamo, immersi in case, ma soprattutto locali di lavoro, uffici, ambienti come ad esempio i ristoranti o altri tipi di ambienti che sono rumorosi e il suono, tipicamente il rumore, lo sappiamo, insomma, disturba, stanca, perché quello che dicevamo prima, vado a prendere una boccata d'aria, siamo stanchi. Perché uno non si rende conto, arriva a sera dopo magari una giornata di lavoro in un open space, adesso oramai quasi tutti gli uffici sono open space, non trattato acusticamente, e scopre di essere stanchissimo. Dice, beh, è stata una giornata di lavoro molto dura. Non capisce, perché non è così facile se uno non si educa all'attenzione, ma non capisce che una quota rilevante della propria stanchezza dipende dal discomfort acustico. Sì. Vi presento l'ospite di questa settimana, Mario Murace, che è uno dei più autorevoli esperti di acustica. È un ingegnere acustico, benvenuto. Grazie. Le faccio subito una domanda di contesto. Gianfranco diceva, abbiamo pochissima attenzione, cioè, in generale effettivamente c'è pochissima attenzione. Per quale motivo c'è così poca attenzione al trattamento acustico degli ambienti? Non stiamo parlando di una cosa, poi lo scopriremo insieme, certo, complicata. No. Molte cose si possono fare anche con materiali poveri, in modo molto semplice. Certo. Le cause sicuramente sono molte. Risalire, che è un lavoro che io faccio da tanti anni, diventa davvero difficile. Io tendenzialmente direi che la causa dovrebbe essere ricercata in una motivazione antropologica, ovvero, come diceva Gianfranco, se io sono immerso in un ambiente che è disturbante dal punto di vista acustico, cerco in qualche modo dopo di disintossicarmi, quindi uscire all'aperto oppure andare da qualche parte. Nel momento in cui sto facendo questo mi sto staccando dagli altri e quindi sono con me stesso. Allora può essere che questa situazione in realtà sia parzialmente cercata, perché il rumore indica che c'è una comunità intorno e quindi non ci fa sentire soli. Quando dicevamo prima il trattamento acustico è una scienza, diciamo così, dimenticata, parliamo di non rocket science, non una cosa complicatissima. Allora facciamo anche degli esempi per capire che cosa significa fare un trattamento acustico in un ambiente che può essere di lavoro, ma anche poi nella casa. Magari dopo entriamo nelle case per dare anche alcuni consigli. Molte di queste cose possono anche essere fatte con materiali poveri, con cose semplici. Certo, anzi, i materiali che si utilizzano sono nativamente dei materiali poveri. Poi vengono resi nobili per poterli vendere a un prezzo maggiorato, ovviamente. Ma come ciascuno, sempre il marketing ci mette del proprio. Nel modo più assoluto. Quindi con un minimo di cognizione qualunque persona può mettere mano a un ambiente in cui vive, domestico oppure di lavoro, con piccoli interventi, ottenendo dei benefici notevoli. I principi base quali sono? Magari Gianfranco ci dice qualche cosa, poi l'ingegnere certo. Va più sullo specifico. Ma allora, i principi base sono ovviamente, volendo, complicatissimi. Adesso semplifichiamo molto, ma diciamo... Ma anche semplicissimi, perché... Sì, la riflessione del suono è una cosa facile da capire. Sì, è una riflessione né più né meno che come quella ottica, quindi una superficie che è piana, rigida e liscia, tanto per intenderci, è una superficie che è riflettente dal punto di vista acustico. No, allora, molti pensano che la cosa migliore sia prendere la stanza e riempirla completamente di materiale assorbente, rendendola assolutamente sorda. E a quel punto ha fatto un bellissimo trattamento acustico. Beh, innanzitutto chiariamo che stiamo parlando di trattamento acustico interno, non di isolamento acustico verso l'esterno, quindi non far sentire il nostro rumore ai vicini. Quello è tutt'altro problema e si risolve in tutt'altri metodi ed è anche, volendo, molto più complicato, perché in alcuni casi bisogna fare proprio delle infrastrutture importanti. No, stiamo parlando di trattamento interno. Avere una stanza completamente sorda non è una buona idea, perché poi alla fine si crea una situazione, per esempio nell'ascolto musicale, che non è piacevole, perché molta energia viene assorbita, in questo caso da tutte le pareti rivestite, ammesso che si possa fare, e è il tipico cartone d'uovo che si faceva quando si faceva il piccolo studio dove si suonava da ragazzi, ecco, queste cose qua non creano un ambiente veramente confortevole dal punto di vista acustico. Bisogna riuscire a giocare bene tra superfici, certo, anche assorbenti laddove serve, e superfici che invece spezzino le onde, per gestire in maniera più importante soprattutto le prime riflessioni, cioè quelle dove l'energia è ancora molto importante. Stiamo parlando ovviamente in questo caso, per esempio, di un ascolto musicale in casa. Ecco, cioè, un ascolto o anche musicale del televisore, in casa, no? O anche del televisore, perché no? È chiaro che laddove io ho una stanza, l'abbiamo sperimentato tutti, che spoglia, un parallelepipedo, peggio ancora un cubo, con le pareti assolutamente parallele e dal punto di vista acustico degli specchi, cioè totalmente riflettenti, beh, lì dentro riesco a parlare male, riesco ad ascoltare musica male, riesco ovviamente a sentire il TV anche male, cioè. Il che non vuol dire che siccome sento male abbasserò il volume, al contrario, siccome sento male e non riesco a capire cosa dice lo speaker del telegiornale alzerò il volume. Alzando il volume, siccome si sente male, aumenterà ancora il grado di confusione, quindi peggioro tutto. Sì, cioè andiamo in una situazione proprio di discomfort. Sì, ci sì. Sono delle soluzioni, magari certo. Ce le racconta Mario. Per capire molto bene quello che Gianfranco ci ha spiegato, comunque in maniera semplice, andate nel bagno pieno di piastrelle, lì provate a parlare, magari fare qualche urletto e capite che cosa vuol dire la riflessione del suono. Mi sembra di capire che adesso parliamo della casa per fare un esempio, ma molte cose valgono anche per ambienti di lavoro, per locali pubblici. Ingegnere, che cosa dobbiamo cercare di evitare? Come dicevo prima, tendenzialmente tanti anni di studio mi portano a considerare questa situazione dal punto di vista antropologico, che si affianca a quello fisico e tecnico, ma credo che la prima parte sia più importante. Non dimentichiamo che il nostro sistema percettivo, le orecchie, sono nate, servono per localizzare all'esterno a noi ciò che non appartiene a noi. Quindi tipicamente poteva essere inizialmente qualche cosa di pericolo. Di conseguenza, come diceva Gianfranco, creare un ambiente che sia completamente assorbente, quindi evitando tutte le riflessioni in un ambiente, per esempio in una casa, non è una condizione confortevole, perché involontariamente noi perdiamo difesa rispetto all'esterno e quindi non ci rendiamo conto che in quella situazione in realtà non siamo tranquilli, perché non sapremmo da che parte arriva il pericolo. Questo vuol dire che poi nella pratica cosa potremmo fare, ad esempio in una casa? Mettere delle tende per evitare la riflessione dei suoni? Certo, le tende sono utilissime e normalmente vengono applicate dove ci sono dei vetri, perché servono per oscurare. Ma la tenda ha la sua funzione, si può mettere anche lungo un muro. quando serve, per esempio per ascoltare musica piuttosto che ascoltare l'audio del televisore, si possono stendere le tende, quando non servono le si possono chiudere. Quindi anche... è un principio molto semplice, costa pochissimo e arreda anche la casa. Ecco, a proposito di arredamento. È un po' quello che dicevamo prima, le tende vengono usate per l'aspetto ottico, certo, e, non nessuno pensa, e nessuno pensa di usarle per l'aspetto acustico. Certo. Cioè, capisci che... Quindi questo vale anche per una poltrona e un divano. Certo, assolutamente sì, ma vale anche per i tapeti, vale anche per la pelliccia della nonna che non sappiamo dove metterla, benissimo, la mettiamo su un appendino e la lasciamo per esempio vicino al televisore. Utilissima in molte situazioni. Ah, cioè serve per certo. Evitare riflessioni sonore di sì, che disturbano. Perché il televisore invia informazione di fronte a chi sta di fronte al televisore, quindi tutto quello che va intorno potrebbe non servire. E allora la pelliccia della nonna che non si utilizza più, messo dietro il televisore, utilissimo. Gianfranco. Ecco, infatti il problema è quello di intercettare, no? Soprattutto, parlo per esempio di diffusione non so, musicale, classico hi-fi, dove anche l'energia espressa, se alziamo un po' il volume, è importante, ecco, intercettare le prime riflessioni. Cioè, dal diffusore mi arriva un segnale acustico diretto. Io lo ascolto, però contemporaneamente lo stesso segnale se ne va anche un di fianco, di lato, va a sbattere contro la parete che ho per esempio sulla sinistra e viene riflesso verso di me. Mi arriva lo stesso segnale, ma ovviamente leggermente ritardato nel tempo, è sfasato. Quindi l'effetto che ho è un effetto di discomfort, di confusione, perché la mia sorgente acustica non è più piccola, diventa gigantesca, perché un po' la sento da davanti e un po' la sento da sinistra, ma poi c'è il soffitto, un po' la sentire da sopra, c'è il pavimento, un po' la sentire da sotto, c'è. Quindi, per esempio, il primo nemico di una buona acustica in realtà è la nostra abitudine di avere dei soffitti, dei plafoni assolutamente planari, paralleli al pavimento e totalmente riflettenti, intonacati, punto. Questo è già un primo aspetto, bisognerebbe trovare delle soluzioni architettoniche che ci sono. Quindi, al di là del fai da te, che è sempre disponibile, ma ci sono anche delle soluzioni architettoniche che permettono, se l'architetto che ci affianca magari ha questa sensibilità, ce ne sono pochi onestamente, per avere per esempio sul soffitto dei piccoli pannelli magari non perfettamente orizzontali, ovviamente un po' assorbenti, un po' non, un po' riflettenti, che permettano di spezzare queste prime riflessioni, non di assorbirle completamente, sì, perché sì. Se no l'energia che noi percepiamo della nostra cosa, però se le spezzettiamo, allora a quel punto queste riflessioni diventano un segnale, fammi dire, utile. È la tipica acustica della stanza. E l'acustica della stanza, sappiamo che per esempio gli auditorium, i teatri più importanti vengono stimati per la loro acustica. Non è che sia l'acustica debba essere annullata. Certo, certo. L'acustica deve essere gestita. Se è gestita bene, la stanza diventa confortevole. Sì, come in certi ambienti, che ne so, nelle chiese dove ci sono i cori, c'è una buona acustica oppure c'è una pessima acustica. A proposito di casa, possiamo aggiungere qualche cosa, perché ovviamente in casa vale un po' il fai da te, mica possiamo chiamare l'ingegner Murace per farci il progetto in casa, o alcuni forse lo possono fare. No, certo che no, anche perché avrebbe un certo costo, giustamente. Però direi che la bibliografia e tutto quello che è disponibile oggi su internet è ridondante, per cui con un po' di pazienza in 2 o 3 serate si può spulciare con tutto quello che c'è in giro e trarre alcuni spunti utili, notevoli, riducendo notevolmente i costi, magari affiancando questo lavoro dal gentil sesso, la compagna, la moglie, comunque una donna, la quale stimolata sotto questo aspetto spesso e volentieri ha delle intuizioni che superano le nostre mascoline. Certo, perché poi tutto ciò deve essere poi combinato anche con l'arredamento, perché nel modo più assoluto non è che uno deve mettere cose brutte, no, altrimenti certo. L'ambiente diventa acusticamente confortevole ma brutto alla vista. Certo, comunque è molto interessante quello che dice Gianfranco sul soffitto, perché il soffitto è piatto ed è una ulteriore parete riflettente, e mentre nella casa ci sono armadi, divani, tende, cose va. Un quadro, ad esempio, serve anche per spezzare le onde che riflettono del suono. E soffitto quasi mai. Quindi quello soffitto è un problema. Quasi mai. Ma questo è un problema che abbiamo introdotto noi moderni, perché se risaliamo 3, 4, 500 anni fa, ci ricordiamo benissimo, nelle case antiche erano fatte cassettoni. Sì, sì, beh, io abito in una casa degli anni 30 con il soffitto a volte. Perfetto, quindi... anche con delle travi. Sì, quindi sì. C'era già una idea di questo tipo di controllo. Poi per praticità di realizzazione di progetto è chiaro che i soffitti piani sono molto più semplici da fare. Senta, se passiamo al mondo dei locali pubblici, che ne so, i ristoranti. Quando io e Gianfranco abbiamo chiacchierato per preparare questa puntata, ci dicevamo... Anche al ristorante sarebbe importante creare un ambiente che sia il meno rumoroso possibile, perché poi c'è l'effetto della persona che non sente l'interlocutore, alza un po' la voce. Sì, si chiama effetto Lombard. Quindi io non sento, per cui alzo un po' la voce. Ovviamente alzando la voce disturbo il vicino che non sente, a sua volta alza la voce. Sì, è un escalation. Effetto donimo, e dopo un quarto d'ora nessuno sente altro. Invece sarebbe importante, però mi sembra di capire che c'è pochissima attenzione. Quasi nulla, per esperienza quasi nulla. Durante la mia vita professionale avrò avuto un contatto forse una decina di volte con gestori che mi hanno interpellato per porre un rimedio. Il problema è che per porre rimedio in quegli ambienti, siccome ci sono tante persone, l'intervento non può essere proprio un fai da te, e quindi il costo comincia a lievitare, e di fronte a questo si tirano praticamente indietro. Certo, e idem per i locali di lavoro, uffici, adesso che va molto di moda l'open space. Ecco, l'open space, si può intervenire nell'open space, la cosa è molto più semplice rispetto a un ristorante, per esempio, perché l'informazione è un'informazione rispetto al ristorante definita. Non ci sono parole inutilmente oppure urla inutili. E quindi c'è una quantità di energia, un tipo di energia che si conosce benissimo, che è l'energia del parlato, che si può controllare con elementi abbastanza semplici, che costano poco, che possono essere inseriti in ambiente con grano salis, ottenendo eccellenti risultati. Una cosa che mi ha impressionato è che mi ha riferito Gianfranco, che lei dice, ma come dire, è la scienza poi che lo dice, sì, che il 70% della resa sonora è data dal trattamento acustico di un ambiente. Cioè, quando io ascolto una canzone, sì, o ascolto anche il televisore o la radio, ascolto la radio in casa, sì, se il mio ambiente è pessimo, con un sacco di pareti riflettenti, sento male, e il 70% è dovuto all'ambiente. Il 70% è dovuto all'ambiente, ma probabilmente anche un po' di più, dipende un po' dai casi. Necessariamente sì, perché se noi potessimo ascoltare o volessimo ascoltare, che so, un impianto piuttosto che una persona che canta in uno spazio aperto, in un prato, in un deserto, non ci sarebbe dell'energia restituita dall'ambiente in uno spazio aperto. Ma in uno spazio confinato, cioè chiuso, c'è tutta quell'energia che non arriva direttamente a noi sul tragitto ottico, che esiste e quindi ci porta informazione aggiuntiva che può essere utile, può essere inutile, va trattata con un grano salis. Certo. Cioè, non va annullata. Sì, sì. Il paradosso è chi spende fior di quattrini, migliaia di euro, in alcuni casi anche decine di migliaia di euro per un impianto hi-fi, high-end, eccetera, eccetera, e poi lo colloca in una stanza qualsiasi. Cioè, per qualsiasi non intendo una brutta stanza, ma una stanza dove non è stato fatto nessun pensiero, sì, sì, di correzione acustica. La catena non finisce con l'emissione del suono da parte dell'altoparlante. Inizia. La catena finisce nelle nostre orecchie, nel nostro sistema percettivo. E quindi noi ci dimentichiamo che, come al solito, l'esercito va al passo del soldato più lento. Quindi se io ho un pessimo trasferimento dell'informazione acustica dal diffusore alle mie orecchie, ecco che avrò un pessimo ascolto, a prescindere da qualsiasi tipo di impianto io abbia. Sì, sì. O comunque, guarda, vale anche per quelli che hanno l'impianto da pochi euro o una banalissima radio o comunque una casa non... acusticamente confortevole, tale per cui io magari vengo invitato a casa di questa persona e dopo una serata, faccio come dicevamo all'inizio, cerco di uscire per prendere una boccata d'aria, ma in realtà perché sono stanco, perché c'è un rumore pazzesco. Ma io penso che il problema, cioè la cosa più importante sia iniziare a porsi il problema. E dopodiché, se uno incomincia ad essere un po' attento, ad ascoltare attentamente, viva Dio, le soluzioni le può anche trovare o ricercare in maniera empirica, sperimentalmente, perché la differenza, se uno l'ascolta, la sente immediatamente. Il problema è che noi non siamo in ascolto, in attenzione. Quindi il compito a casa cos'è che lasciamo ai nostri ascoltatori? Il compito a casa è quello, oggi, quando ci sentite, o nei prossimi giorni, man mano che cambiate ambiente, per un attimo, 20 secondi, non parlate, non interagite col mondo, non guardate neanche niente, chiudete un attimo gli occhi e ascoltate, catturate che cosa sta arrivando alle vostre orecchie. E catturate se siete veramente in un ambiente silenzioso, come dite, oh, in questo momento c'è silenzio, oppure silenzio non c'è, e che tipo di informazioni vi arrivano. Allora a quel punto si capisce, per esempio, molto, proprio con un ascolto un pochino più attento, se siamo in una situazione di conforto acustico o no. Bisogna concentrarsi. Già se a valle di questa, di questo piccolo contributo che diamo oggi, i nostri ascoltatori si soffermeranno per qualche minuto ad ascoltarsi, ad ascoltare l'ambiente, gli ambienti dove vivono abitualmente, credo che sì, buona parte del risultato l'avremo. Sì, sì. L'avremo dico una sciocchezza se dico che nell'automobile normalmente si sente abbastanza bene, proprio perché ci sono poche riflessioni e ci sono i sedili che un po' assorbono. Allora, è una semisciocchezza. Ah, perfetto. No, nel senso, nell'automobile si ascolta bene per un motivo molto semplice, perché l'ambiente è molto piccolo, è molto piccolo. E in queste condizioni, senza andare nel tecnico, non è il caso, il campo acustico, cioè tutte le riflessioni che ci sono in un ambiente normale, non sono presenti. E di conseguenza c'è molto meno disturbo. Cioè, le pareti non sono sufficientemente lontane per creare delle riflessioni che disturbano. Perfetto. Invece nella casa ci sono 3, 4, 5 metri. Eccellentissimo. Perfetto. E poi c'è un aspetto importante. Questo è importante, cioè, comunque, le riflessioni, quelle vicine, cioè quelle vicine. La parete dietro al televisore, esatto, non dà un gran problema. No, sono quelle dietro noi, oppure ai lati, oppure essenzialmente soffitto. Soffitto è deleterio. Soffitto. Possiamo dare altri consigli, ma soprattutto degli esempi di strumenti, soluzioni che vengono adottate per fare trattamenti acustici. Io mi ricordo di aver visto anche dei fili, oppure delle piccole vele che vengono messe in ambienti proprio per spezzare l'onda sonora, cose molto semplici. Sì, assolutamente sì. Parlando di vele, le vele possono essere realizzate in materiale modesto, costano pochissimo, e l'utilità delle vele è che una vela è una superficie e quindi ha due facce, e per cui si può giocare con una faccia riflettente e una faccia assorbente. Per esempio, mettendo delle vele a soffitto si può utilizzare la parte riflettente verso il basso, quindi chi ascolta, e mettere del materiale assorbente sopra, che è utilissimo, intercetta il campo acustico e non disturba la vista. Altre cose che vengono utilizzate? Altre cose che vengono utilizzate sono quei pannelli che si trovano dappertutto in poliuretano, quelli bugnati con delle piccole piramidi o cose di questo genere, oppure del fai da te. Per esempio, una cosa utile che si può fare è prendere una tela sul quale ci sia un bel disegno, oppure addirittura dipingerla, fare un quadro e dietro al quadro, 2-3 centimetri, riempirlo con del materiale assorbente. Diventa esteticamente bello e il quadro diventa un elemento assorbente, utilissimo. Certo, questo si combina il design con... Sì, con. C'è anche un altro aspetto che noi tendiamo a non considerare sempre, perché la luce e la vista sono più importanti. Ecco, una parete, un pannello per esempio, con piccoli fori, pochi, direi il 7-8% della superficie forata, beh, se lo illuminassimo farebbe passare poca luce, il 6-7% della luce. Ecco, no, con l'acustica non è così. Cioè, un pannello forato al 7-8% fa passare, non dico la totalità, ma quasi la totalità del segnale acustico. Quindi, per esempio, Io guardo su nello studio dove siamo adesso, abbiamo un soffitto con delle piccole doghe, ma in mezzo a queste piccole doghe in realtà qui non si vedono, ma ci sono dei fori, dei piccoli fori, perché dietro c'è il materiale assorbente. Allora questo permette a questa superficie di essere parzialmente riflettente, perché ovviamente c'è una superficie piana che è quasi totalitaria, ma nei piccoli fori una buona parte dell'informazione viene catturata e viene praticamente neutralizzata dal materiale assorbente che c'è dietro. Quindi con anche pannelli forati poco, che quindi sono esteticamente sembrano quasi non forati, noi possiamo avere una trappola in cui andare a catturare una riflessione, per esempio. E ci sono anche pannelli sia in cartongesso sia in materiale già finito, laminati da mettere come controsoffitti, per esempio soltanto per una porzione della stanza, che sono già pronti a costi assolutamente accessibili e gradevoli da vedere. Gradevoli da vedere, sì, poi sì. Possono essere finiti come si vuole. Un'ultima considerazione: l'illuminazione intesa come i lampadari, certe plafoniere, possono essere utilizzate per spezzare le riflessioni sonore o non è proprio il caso? Ma in teoria come oggetto sì, il problema è che la superficie che loro oppongono al campo acustico è limitatissima, per cui il loro effetto diventa molto ridotto. Bene, io ringrazio Mario Murace per essere stato con noi. Ovviamente abbiamo grazie dato solo un accenno di questa materia. Pochissimo, estesissimo. Però lo scopo di questa chiacchierata era prendere consapevolezza. Esatto, che mi sembra di capire che è già un passo avanti. La cosa più, forse più importante. Certo. Molte grazie. Grazie a voi. E grazie anche a Gianfranco Giardina che mi ha dato l'idea da un po' di tempo e siamo riusciti a metterla insieme oggi. Grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori. E così concludiamo questa puntata di 2024, la nostra versione podcast. Come sempre vi ringrazio per l'ascolto, grazie per aver ascoltato in streaming, aver scaricato questa puntata, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Io sono Enrico Paglierini, ci risentiamo la prossima settimana. Non dimenticate i nostri orari di messa in onda alla radio, quindi oltre al podcast ci potete ascoltare il venerdì tra le 22 e le 23, domenica fra le 13 e le 14, ovviamente sempre dopo le notizie di GR24. Ci risentiamo la prossima settimana.